Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Roger? Qualcuno che prenda il walkie-talkie? Qualcuno che prenda il walkie-talkie? Prendere il walkie-talkie, per favore. Ci siete? C'è qualcuno al walkie-talkie? Avete necessità di qualcosa? Come va la saturazione di Garau? Avete necessità di qualcosa? Mi sentite? Mi sentite? Quando dovete mollare il pulsante? Sì, vi sentiamo. Quanto è la saturazione del signor Garau? 97. Potete portare il flusso dell'ossigeno a 10? Sì, va bene. Il signor Donidu, che è il suo vicino di stanza, attualmente ha il flusso a 4. Potete portarlo a 2? No, no, è il signore che è di fronte. Sì, sì, ho capito. A 2, Donidu. Può slegare un braccio al signor Donidu? Scusi. Ma lo sleghiamo? Può slegare un braccio al signor Garau, quello in cui non ha il saturimetro? Sì, ok. È agitato? Sì, fatto. È agitato? Un pochino. Ci dice che ha 7, può bere? Sì, può bere. Mettetegliela vicina, così può anche prenderla se riesce. Prima di uscire ci avvisate. Mi sentite? Mi sentite? Sono qua. Ci siete? Sentite? Non vi ho sentito, ditemi. Allora, signor Garau è agitato e con la mano che ci avete fatto staccare si stacca anche quella contenuta. E anche il saturimetro si sta togliendo. E allora levateglielo e ditegli che se non si può neanche mettere seduto, altrimenti lo riconteniamo. Sì. Mi raccomando, che non si metta seduto. Avete necessità di qualcosa? Stiamo per uscire. Oh, perfetto, gliel'avete detto a Garau di non mettersi neanche seduto? Ci sentite? Sì, sì, vi sento. Gliel'avete detto a Garau di non mettersi neanche seduto? Sì, gliel'abbiamo detto, ma è un tantino agitato. Per adesso ha ascoltato, però, non si sa quanto rimane così. Ok, dai, va bene, perché era peggio forse contenerlo, perché non è demente questo. Guarda, avete necessità di qualcos'altro? A posto, potete uscire, ragazze. Mi senti? Mi senti? Prova a cercarmi. Mi senti, Sara? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Sara? Sara? Ragazzi, non lo dovete spegnere quando uscite. Se lo spegniamo dentro, poi uno non lo trova, comunque l'ho trovato. Mi sentite? Mi sento benissimo. Niente, il paziente si era staccato l'ossigeno, brutto, ma restato, che lui sta morendo, era senza ossigeno, ce l'aveva 5 litri, bisogna lasciarglielo a 15, punto. Ora adesso si tranquillizza e gli faccio la morfina. Quando finisci la conversazione, devi dire passo e chiudo, però. Gianluca, per favore. Sì, avanti. Come va, Sara? Bene. 15 litri, 84%. Vabbè, adesso piano piano sale. Gliene ho fatto soltanto un milligrammo, però. Un milligrammo era per farglielo indovena, eh. Capito, Gianluca, però... non, adesso è tranquillo. Comunque non ha una saturazione brillante, va. Da adesso proviamo a chiamare in pneumologia, però forse è meglio che ci chiami Noemi. Comunque il paziente è tutto sporco, forse anche quello per il motivo per cui è agitato, ma le ossa che ora entrano? Quello che dicevo anche io, che è sicuramente agitato perché è sporco. Oh Sara. Camera. Ma il signor Donetto per caso ha febbre? La sala sta misurando lui in questo momento. Stai tranquillo. Ditemi. Dimmi Sara, non ho sentito, passo. Niente. Faccio un giretto per vedermi anche gli altri. Poi ripasso qua. Va bene. Oh ragazzi, mi piglio un giro di saturazioni che aggiorniamo le cartelle, tanto sono dentro. E va bene. Io 97%. Chi è? In aria ambiente? Sì, la signora Zocchedu in aria ambiente. 97%. Basso, basso, Sedu. 97% Zocchedu. Mi passate un'infermiera, occlusione a valle, come si tocca questo microgocciolatore? In che stanza sei? Nella stanza di Crobu e di Pisoni. Occlusione a valle, cosa devo fare col microgocciolatore? Aspetta un attimino. Ma dice occlusione a valle o occlusione a monte? A valle. Quindi guarda il paziente, com'è l'accesso al paziente, tanto per iniziare. È un problema. Quindi? Che lo riattiva. No, no, magari adesso rifunziona. Se aveva il braccio piegato, devi far ripartire, me lo ricordo. Ci dici che tasti ci sono? Occlusione a valle mi dà, e boh. Ho capito che ti dice questo. Mi leggi i nomi dei tasti? Ci sono solo frecce. Sara, c'è anche un tasto spegni, blocca, riattiva. Non c'è. Pronto? Sì. Sara, che cosa stai facendo? Sto parlando col signor Garau. 85%, un po' più tranquillo. La frequenza respiratoria si ridotta, è sempre malestato. Comunque, ha detto che lui sta morendo. Ditemi cosa devo fare con questa pompa. Vi devo fare una foto? Tablet e metti il video, così noi vediamo e ti possiamo dare le istruzioni. Aspetta che lo prendo. Signor Donedu, 37 la temperatura. Scusate che recupero il tablet, che stavo aprendo la Donedu, che non se la può aprire, poveraccio. È scarico. Dov'è il caricabatteria? Sara. Sara. Sara. Dimmi. Signor Garau. Cosa? Che cosa? È di cacca, Sara. Oh, che cosa, signor Garau? Gli sporchi di cacca se le sta mettendo nello stoma. Mettiti un altro paio di guanti. Niente, non si è toccato nulla. Visto io che si metteva le mani nello stoma. Faglielo disinfettare poi dalla infermiera o dalla ossa, almeno la parte esterna dello stoma. E dopo quando entro glielo pulisco, ma è pulito lo stoma. Va bene. Come va come saturazione? 82 a 15 litri. Rumori tipo secrezioni? No, non ne ha rumori da secrezione, è sempre iperfuso, però è malestato. Ma il flussimetro è collegato bene, cioè si sente il rumore? Sì, sì, alla grande sta andando. Da 4? Ok. Aspetta che forse la pompa di nuovo sta suonando, ma ancora il tablet non funziona e non c'è il caricabatterie come pensavo. Il caricabatterie del tablet è collocato in una stanza dove c'è un ventilatore, il Pulmodyne. Devo schiacciare start, mi esce occlusione a valle, poi start sopra il bottone verde, glielo metto start. Va. Beh, cosa dicono? Come scusa? Occlusione a valle, poi c'è start sul bottone verde tondo, clicco lì? Sì, clicca là. Ripartito, 21 ml ora. Sto. Ok, sta andando. Proseguire con la saturazione, visto che sei dentro, così evitiamo di rientrare più tardi. E Garau è un problema, comunque. Garau... fagli altri, un altro milligrammo, un altro tè, un quarto. Sì, glielo posso anche fare, però comunque disastro, adesso glielo faccio un altro milligrammo. Pneumologia? La pneumologia 8868? 22 8876 e 22 88 8876, sa. Comunque senti... Tisoni, frequenza 95%. Saturazione? 95 di saturazione e 100 di frequenza. Aria ambiente? Ecco. Aria ambiente? Sì, aria ambiente. Signor Probu, molto bene, 97% in aria ambiente. Krubu, 97% in aria ambiente, vero? Sì, sì. Stato anche di corpo regolarmente. Scusate, ma bisogna far caratterizzare al prossimo giro il signor Pisoni, un'insufficienza renale, non abbiamo la diuresi. Va bene, adesso lo scriviamo. Camera del signor Kerchi. 7% a 2 litri. 97%? Sì, a 2 litri, mentre il signor Dagrosa... Dagrosa quanto ha? 98% a 6 litri. 100%. Il signor Dagrosa sta inviando alla mia mail il referto positivo dell'USCA, ecco perché non lo vediamo. E mi sta inviando alla mia mail il tampone positivo. Bene. Parenti del signor Kerchi faranno il tampone lunedì. 87% Garau, lo vedete? È più tranquillo. Devi andare a casa ma non ti devi levare l'ossigeno. Mi raccomando, eh? Se tu ti levi l'ossigeno io non ti posso dimettere. C'è qualcos'altro da fare? Un attimino che chiedo come siamo messi con le ventole, magari dammi una mano. Benvenuta a passarle io. Scherzavo. Fabio, questa morfina, ci scrivo sopra che morfina e la metto nel carrello. Cosa no. Quando rientrano, cosa ne c'è? Puri ai pazienti. La devi svuotare. Devo buttare. Per forza. Sì, la devo buttare. La morfina a disponibilità delle persone, eh? Vabbè, dai, la sto buttando allora. Ascoltate. E chi è che sta entrando? Che ve lo parlo, cosa sta vestendo? Garau. Chi? Garau. Chi è che sta entrando? Non ho capito. Non lo so chi sta entrando, starà entrando... Chi sta entrando? Un os, un infermiere? Un os e un'infermiera. Allora, che vengano a darmi una mano in gestizione, va bene? Non so se l'infermiera ti sa aiutare. Allora mettiti un sovraccamice, vieni tu, dai. Già mi spoglio io, però almeno mi guardi. Dino. Mi hanno detto che sanno aiutarti. Comunque gli fai leggere la checklist e poi ti fai aiutare giusto per il camice, insomma. Il problema è solo il camice, se mi danno una mano, fatele entrare da questa porta, dai, fatele fare tutti di fronte e fatele entrare. Sono pazienti qua, nella prima ala non ce ne sono, non è un problema. Aspetta che io entro in stanza. Beh, stanno entrando. Ok. Scusate, no, sul comodino no, non se ne parla. Ma la morfina, a parte gli scherzi, solo per lui, si può lasciare o la devo buttare? Sara, tecnicamente non può stare a disposizione delle persone la morfina. Siamo, dai, pazienza, vuol dire che ne scaricano un'altra. Esattamente. Mi faccio un giro con gli infermieri. Capito. Ci giro anche con gli infermieri, ora intanto sono dentro. Bene. C'è qualcuno in ascolto? Scusate, la bacinella tonda che avete dato a Romina è in sostituzione dell'altra? Sì. È da mettere nella stanza svestizione e riempire di varichina, insomma. Quindi possiamo anche utilizzarla in realtà per metterci le visiere pulite, questa, perché praticamente stia levando le visiere pulite che erano a mollo da almeno 2 ore. Capito. Avete dato a Romina per mettere le visiere pulite che erano a mollo da 2 ore. A 89? Esattamente, 89, però decisamente molto più tranquillo. Gli prendo la frequenza, non ho... Aspetta che mi chiedo l'orologio e gli prendo la frequenza respiratoria. Ma non sarà, esci. Ho capito, però non è che stiamo... Non c'è bisogno della frequenza respiratoria, non cambia niente. Prendo una prova. Tieni la chat, parli e poi... Sperato dove? Sì, sì, per aspettare la risposta. Il tablet è in carica sul letto 20, bisogna recuperare una presa per quelle con l'attacco tedesco. Tonde, quelle che possiamo attaccare solo altrimenti al letto del paziente. Sto uscendo, mi dovete dire qualcosa? Sto uscendo, mi dovete dire qualcosa? Quanto è di saturazione, Garau? Sai che rientro. Così chiama la prima. 86%. Si apre. Dai, bravo. Quanto è? 86% a 15 litri a manettone. Sara, ma tu hai necessità di una mano per la svestizione o esci con l'infermiera? Antonella o Romina? Fare cosa? A mi sto svestendo. Davvero. Meno 3 persone. Oh yeah, mezzi caroli. Potete dire a Romina di mettere il saturimetro poi al signor Garau? Antonella? Qualcuno riesce a prendere il walkie-talkie? Ce l'ho. Chi è Antonella? Sì, sono Antonella. Ah, ascolti, mi fa sapere com'è la saturazione del signor Garau? Non è collegato il saturimetro probabilmente. 89 di saturazione. Grazie. No. Parli. Pronto, mi sentite? Antonella? Antonella? Eccomi. Come stai, Antonella? Io? Così così. Ascolta Antonè, abbiamo deciso di rinumerare tutti i letti, perché era una confusione fare 1A, 1B, 1C, eccetera. Quindi se vuoi io ti passo i numeri e tu li attacchi. Se sei troppo stanca lo facciamo dopo. No, se volete passarli da sotto la porta. Sì, Antonetti, li metto in una bustina, ma la presa vi serve adesso, se no casomai ve li porto dall'altra parte. Quale presa? Volevano una presa tedesca, non so, per attaccare non so che cosa. Vabbè, non è urgente, l'abbiamo attaccato il tablet a un letto in una delle stanze vuote. Sì, allora Antonè, la numerazione, aspetta, te le passo fra un po' perché ti scrivo sia il numero di letto che rimane fisso nel letto, però ti metto anche il numero di letto più il numero di paziente, che è quello sito di una volta che il paziente viene dimesso. Ok, passami da sotto la porta o non so se me li mandi. Lo scotch dove l'hai messo? mi sembra che lo scotch è dove c'è il soggiorno in quella specie di dove si poggiano le cose, insomma, dove c'è anche il respiratore. Ok, va bene. Provo a guardare là. Io sto continuando la terapia. Ok. Ma devo prendere i parametri? Come, Antonesco? Devo prendere i parametri sia e PC. Se vuoi me li segno, dimmi. Allora, man mano che li prendo te li dico. Va bene, Anto. Se avete tempo, dovreste rimuovere quei fogli che sono stati attaccati alla vetrata, alla porta a filtro. Quindi li butto i fogli? Come, Antone? Sono Romina. Li butto i fogli? Sì, Romy, buttali che li sto facendo nuovi e poi vi dico come posizionarli. Ma mi ha detto quelli della porta a filtro di lavare. Ah, sì, anche quelli. Quelli buttali perché hanno detto di toglierli. Qualcuno? Chi è il paziente diabetico? C'è nessuno? Romina? Il paziente diabetico è il signor Garau. Romy, mi senti? Quanta insulina fa? Aspetta che controllo. Romy, fatemi sapere lo stick. Adesso glielo prepariamo. Giusy? Dimmi, sono Maria Antonietta. Ascolta, si è rovesciata tutta la terapia, quindi se per cortesia le ripreparate. Tutte le terapie? Antonè, tutte le terapie? Tutte, Anto? Tutte le terapie? Sì, si sono rovesciate tutte, quindi non si capisce le pastiglie, le gocce, se sono gocce. Allora, diteci lo stick, che così facciamo tutto in una cosa. Diteci lo stick. Maria Antonietta? Dimmi, Antonè. Io non trovo il glucometro. Antone, aspetta che chiedo dove può essere, non te lo so. Ok, aspetto. E lui dice a Maria Giovanna di entrare perché Pisoni sta dando la terapia e a me servirebbe aiuto, per cortesia. Ora glielo dico. Grazie. E mi sapete dire dove sono i pacchi dei panni? Romy, non lo so, aspetta un attimino, stiamo preparando la terapia e poi chiedo. Ok, passo la Giovanna che chiedo a lei. Aspetta che ti passo Maria Giovanna. Sì? Sono senza panni. Nella stanza dove c'era il soggiorno prima ce ne sono tanti. Ma devo stare molto da sola perché mi sto sentendo male io qua. Romina, ma quanti ne hai ancora? Allora, stavo aiutando a Pisoni a cercargli le cose. E sono riuscita a cambiare un paziente e un letto, adesso ne devo cambiare altri tre. Devi cambiare altri tre. E Antonella non ha finito? No, non ha finito. Va bene, allora entra Maria Giovanna. Antonella, ascolta un attimo. Antonella, mi puoi rispondere un attimo? Sì, dimmi Maria Antonella. Questo image di signor Donetti l'hai trovato poco fa? Non ce l'abbiamo l'energia. Benissimo, avete trovato il glucometro? No. Antone, Anna mi sta dicendo di controllare su quel tavolino, non so. Boh, adesso continuo a cercarlo. Antone, la terapia è pronta, te la porta Maria Giovanna dentro appena entra. Dico, Maria Antonia? Sì? Ti hanno mandato un ricovero dal PS. Antone, non ho capito. È arrivato un ricovero. Vabbè, ma vuoi che entri? Sì, una sì ci vuole. Entro io, Antone. Comunque il glucometro l'ho trovato, eh. Allora misurala e fammi sapere quant'è, così ti dico. 140. Come medi? 140. Antone, certo. Antone, accertati prima che mangi, e poi vediamo se fargli. Ok. Il paziente che è arrivato, vogliono sapere. Dove la metto la paziente? Nella stanza 5-6? Nella stanza a seguire. Nella stanza a seguire nella parte della lavandino. Va bene. Antone, mi sa che io non posso entrare, almeno che tu non ce la fai più, perché stanno entrando anche i medici. Quando ho bisogno te lo dico. Ok Antone, fammi sapere, se non ce la fai chiama. Va bene, passo e chiudo. Con il sanitario c'è un'informazione sulle interali, mi senti? Lascia quello del momento. Mi sto avvicinando alla porta. Ci sono io, arrivo. Così fai anche l'altro. Ti ricopro da fuori, te lo faccio io. Antonella. Correggetta. Antonella. Allora, temperatura 36,3. Senti? Ehi, chi è? Temperatura corporea 36,3. Ok, sentito. Pressione arteriosa? 174,97. Frequenza e saturazione? Frequenza cardiaca 85. Ok, la frequenza cardiaca quant'è? Saturazione 99. Frequenza e stick glicemico, visto che è un ictus. Frequenza cardiaca 85. Polsi arteriosi presenti ai quattro arti, isostigmici e ritmici. Ok, dimmi se è disfagica e è lo stick glicemico. Glicemia 102. Ok, è disfagica? Gianlu, cosa facciamo? Dieta cremosa? Frullata, poi lo valutiamo se disfagica. Allora, l'esame neurologico non è disartrica, sulla disfagia non mi pare, però insomma sarebbe da valutare obiettivamente. Invece cosa poi vai? C'è una presa facciale, una direzione della rima. Destra o sinistra? Faccio brachio crurale, c'ha deficit? Cioè, scusami, brachio crurale? Facciale. La forza agli arti superiori e inferiori è normale. Non ci sono ipostenie. Chi gli ha chiaro esordito tutto? Lei dice che avanti ieri ha notato la deviazione della rima. Ha notato anche articolazione deficit di articolazione del linguaggio? Gli puoi chiedere se è autonoma, a casa, con chi vive? E se normalmente faceva le sue cose. Sto facendo altre domande. Dai, tutto sommato dal punto di vista cognitivo va bene, vive con il compagno che ha 97 anni, lei si è accorta della deviazione due giorni fa, aveva difficoltà un po' articolare. Ti fai dire anche che terapia prende a casa? Mino non ho finito. Però non mi è chiaro in realtà se lei abbia semplicemente un deficit motorio o una forma di afasia o insomma espressiva, sembra proprio una disartria dal problema della muscolatura periferica. Ci sono segni di scompenso, è abbastanza ben idratata, oggi non ha mangiato niente, si ricorda che fa una terapia antipertensiva, ma non sa quale, diabete apparentemente non ne ha, insomma sono le condizioni generali sono buone. All'esame obiettivo all'addome lamenta un pochettino di dolenzia in fossa iliaca sinistra, ma non ci sono segni, insomma, facciamo pensare a problematiche acute. Chiederti un'altra cosa, quindi non si ricorda che terapia prende a casa in generale, pregresse malattie, eccetera, e se ha il numero di qualche parente. In realtà a momenti sembra che abbia un pochettino di disartria, lieve ma ce l'ha. Si ricorda i numeri, il compagno pare che non abbia un telefono. Dicevo, non si ricorda il numero, nei suoi effetti personali mi pare che non ce ne sia. dal punto di vista della terapia. Signora, si ricorda se oltre alla pastiglia della pressione prendeva una medicina che si chiama aspirina? Aspirinetta? No. E prendeva una medicina per il colesterolo, per il diabete, l'insulina? È mai stata operata? Operata? Le hanno mai fatto un intervento chirurgico? Sì, mi è stata la chirurgia, la lieve. Per la cataratta? No, cataratta, non so come si chiama l'altro. Non so come si chiama. E ma quanto tempo fa? L'anno scorso. Non è per la cataratta? No. Al glaucoma? Nemmeno. Nemmeno. Boh. Non è chiaro. Chiedi se allergia a farmaci, che lo scrivo, se fabbrica. Allergia ai farmaci? No, non sembra. Dice di essere fabbrica. Mi pare che con la signora abbiamo finito. E fumatrice? Sì o no? No, non fuma. Ha una figlia, ma... non sa, non si ricorda il numero di telefono, magari verranno a portare gli effetti personali. In realtà qua c'è una borsa con tutti gli indumenti, delle scarpe, insomma non lo so se si avvicineranno, ma per il momento niente. Devo mettere una cardiaspirina. Cosa dite? Mi sa che io se arriva l'altro ricovero aspetto qua, tanto sono entrato. Chiamando Federica, ok? Dico di mandarmela, ciao. Luca, hanno già chiamato l'ambulanza per la paziente, non stare nelle stanze, siediti fuori e niente, sta arrivando. Allora, il signor Garau c'ha 86. Appena poi esci 15 litri. Bisogna cercare di mettergli una fisiologica, ha le labbra completamente secche. È disidratato. Hai sentito? Gliel'avevamo già messa la della fisiologica alle 18. Credo che gliel'abbiano attaccata. Sarà un problema comunque gestirla. Ma scusa, ma è di nuovo contenuto? No. A me mi sembra di sì da qua. Ah scusa, hai ragione, sì, è contenuto. No, la fisiologica ce l'ha in corso. È molto agitata e sofferente. Ha segni di bassa agitata anche. Nel senso che insomma la cute è freddina. E anche amarezzata. Te l'ho detto che non è. Non va bene. Paura che non facciamo in tempo. Gli altri pazienti sono stabili. Adesso me ne vado nella prima stanza e rimango là. Ok Gianluca. Mi fa piacere comunicarvi che nella prima stanza la finestra è aperta. Bene. Praticamente dovrebbe stare chiusa, ma adesso mi godo un po' di freschino autunnale. Attesa stimata? Ha detto che l'ambulanza era già in corso. Ah, quindi questione di minuti, insomma. Dovrebbe essere così, Giallo. Chi ci dovrebbero mandare? Dovrebbero mandare una polmonite, è vero? Sì, San Antonello del 55. Polmonite interstiziale, credo senza insufficienza respiratoria. Vediamo se loro hanno fatto un emogas, ma immagino di sì. Insomma, non credo che sia necessaria. Ora controllo, mi sto stampando il foglio del PS. Quindi mi assicurate che l'altra ambulanza è già partita? Così mi ha detto, in una camera da solo seduto. Vale la pena entrare e uscire. Ma chi è che vuole parlare con me? Voglio parlare con Franco. Scusami, te lo passo. Ciao Angelo. Fra, ma poi dell'ortopedia cosa si sa? Allora, sono indecisi tra ortopedia e urologia, ma comunque entrambe il personale infermieristico è stato formato. Allora, noi abbiamo un problema con Marco Piras, che dovrebbe completare con la FAD. Quindi, siccome lui domani mattina è di turno, l'opzione migliore mi sembra di farlo restare fuori per supportare i colleghi che entrano. Cosa dici? Bene, se non ci sono problemi va bene così. Tenete conto che la formazione è importante che sia programmata, capito? Dopo lui la può fare anche tra due giorni. Allora va bene, è programmata. E così va bene. Ok. Ah, e invece gli altri medici per l'urologia chi sarebbero? Sarebbero quattro medici. Luca Ariello, noto platinette, a CCI. Fondamentalmente dopo altri che sono neurologi, cardiologi. Via che ti sento fra. Che trova la direzione. Insomma, uno scenario confortante. Ehi, mi ha preso squeccio appena appena, dai. Però già ti sento. A me mi senti bene? Non ce la sento perché ce l'avevamo davanti ai giusti. È quello che altri hanno già fatto. È quello che Conto ti racconta sempre della fine. Sì, prova a vedere. No, già ti sento, ti sento. Pensavo c'era Luca qua, invece ci avesse altra gente, boh, non so dove stanno parlando. Dovete cambiare linea. È a mia, mi senti? Sì, ciao Giulio. Ciao Claudio. Vabbè, dai, a posto siamo. Sono appena rientrato. Ciao Franco, non ti sento purtroppo. Sara? Merda, non ti sento. Sì. Che prendi fra? Sara? Non vedi? È occupato questo canale, Sara. È occupato questo canale 7. Spostatevi in un altro canale. Qua ci sono, c'è la banda cittadina, CB di Sassari. E non vedi, Giulio, che sei con l'affanno? Attendere. Sarà. Sì, da domani devo essere una dieta frullata. Buonasera, segnale un ormosolè, adesso lo faccio portare all'infermiera. Alla camerata. Da mezzogiorno e mezzo ne siamo usciti adesso. Da stamattina, adesso ne siamo usciti. Vabbè, l'intervento è durato 5 minuti, 5-10 minuti. L'attesa è durata 6 ore. vabbè, purtroppo è così là. Ascolta, chi l'ha operata, dottor Donaera? No, non c'era quello. Piccinini mi sembra, dottor Piccinini credo che si chiami. È molto bravo, sì. No, mia moglie venne da Donaera a fine mese, c'è appuntamento. E poi devono ricordare la luce Valgo. È già in lista d'attesa. No, già funziona quella struttura, ha sempre funzionato, ma adesso funziona ancora meglio. Sì, beh, penso proprio di sì. No, perché l'attesa era dovuta al fatto che si era guastata la macchina stamattina. Se no l'appuntamento era per l'una. Noi a mezzogiorno e mezzo eravamo già lì. Però chiaramente poi c'erano altre persone, ancora prima di mia moglie, con un appuntamento ancora prima, e per cui poi c'è voluto tempo e siamo usciti adesso. Che ore abbiamo fatto nel frattempo? Fa. Tempo sono le 19. Via, va bene, va bene. Franco, lo senti a Giulio? Oh, potete cambiare linea, per favore, grazie. Franco, lo senti a Giulio? Lume di linea, sì. Quello Antonio era. Claudio? Sì, fra, dimmi. Non lo sentono. Lo senti a Giulio? No, non lo so, Giulio, perché c'è altra gente qua che sta parlando. Io continuo a dire che il canale 7 è occupato qua dai CB di Sassari, ma non è che posso stare a bisticciare con la gente. Se vogliono parlare, che parlino tra di loro. Io già parlo sopra, non me ne affutti nulla a me. Gianluca, cambia la linea, metti il 6. Qui si è considerato che questo canale è stato assegnato ai CB, per cui vabbè, dai. No, ma ho sentito la voce che mi è sembrata Antonio Reserva, dalla voce era uguale, poi se è lui non lo so. Non so, non ho sentito, forse ha parlato assieme a questi che io sento. Sembra boh l'ospedale, sembra, non lo so che cos'è, boh. Ma sicuramente deve essere qualcosa medica. Antonio, sei tu? Io non lo sento giù. Vabbè, adesso nemmeno io, va, che mi sto sbagliando, non lo so. Ma Franco mi ha sentito, Claudio? Mi sente Franco? Io a lui non lo sento. Silvia? No, credo di no, vero Fra, non lo senti a Giulio? Io negativo. No, no, non ti sente giù, non ti sente. Assolutamente negativo, dai, allora passiamo al 10, dai. Andiamo al canale 10, Fra. Ok. Giulio, tu puoi passare al 10, io sei giù. No, no, sono qua, sono io al piano superiore. Sì, va bene, adesso accendo, dai, accendo adesso sul 10. Ehi, vabbè, tu saluti a Franco. Ok, volevo sapere se... Luca, ci sei? No, Luca Flipper non è a casa, è qua vicino a casa mia dalla cognata. Ah, ho capito, e vabbè, là. Va bene, va bene, va bene. No, perché le volevo chiedere una cosa. Va bene, canale 10, ok? Sì, canale 10. Quindi quelli ventilatori particolare, entrando in ripetere. Raga. A 10 quindi la Nora sta andando a 0,6. C'è nessuno? Sì. Andiamo qui, andiamo. Che? Manca. Del mazzo fortunato in inizio, però se vuole anche il resoconto dei cittadini con nome, cognome, ventilazione. Andiamo, andiamo, senti. Luca, ci sei? Chi è? Luca, ci sei? Chi è? Luca. Attento, Luca, ci sei? Luca Flipper, ci sei? Luca, ci sei?